best rock and roll station in the world is Rock FM. Carlo Santana ha fatto le cover, pezzo dei Fleetwood Mac firmato Peter Green, in effetti la prima versione proprio dei Fleetwood Mac, poi forse ha avuto più successo, dobbiamo dire, questa Black Magic Woman fatta da Carlo Santana e dalla sua band di sempre validi musicisti dell'epoca. 9:30 minuti primi, saluto allora Marina da Genova, ero al telefono con un'etichetta discografica, chiamami tra poco, ok? Mi chiedono amici che stanno viaggiando verso Genova qual è la frequenza di Genova, 87.5 e 88, quindi all'inizio della scala FM sulla sinistra. Poi ancora una volta andiamo a salutare Andrei che dice che inizio spettacolare, Judas, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, I Love Rock and Roll di John Jett e via così. Buona giornata anche a te Andrei. Lara, ci sarà quella canzone che mi richiedi e quindi grazie a voi che state continuando a scrivere, a messaggiare. 9:30 minuti primi, in arrivo Steve Miller Band. protect my world at night. To a place in the past, we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. We're back on the train. Pigeon from hell. Oh, descending our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Voce femminile qui con i Pretenders, da voce femminile a altra voce femminile. Jefferson Airplane, Grace Leak, in questo caso la voce, il pezzo è Somebody to Love. this is Ozzy Osbourne and you're listening to Rock FM. Iron Man, Black Sabbath. Direi che tra un po', dopo questa scaletta, chiude, vado. Insomma, oggi il computer ha posizionato una canzone più bella dell'altra. Altro compleanno per questo 15 di maggio, dopo quello già segnalato di Brian Eno, abbiamo quello di Gary Thayne, nato, oltre che nello stesso giorno, nello stesso anno di Brian Eno, cioè il 1948. Gary Thayne è stato bassista degli Uriah Heep, purtroppo scomparso il 19 marzo del 1976 per overdose, morto all'età di 28 anni. Il compleanno del giorno. Diceva David Byron, cantante degli Uriah Heep all'epoca, questa è Stealing. Abbiamo segnalato il compleanno, perlomeno la nascita, di Gary Thayne, che è stato per un certo periodo bassista della band, poi scomparso per overdose il 19 di marzo del 1976. Questa è una grande canzone degli Uriah Heep, Domani notte comunque sicuramente sia Uriah Heep sia altre band non mancheranno con brani che di solito non programmiamo, mi sembra giusto naturalmente. E a proposito dei Judas Priest che abbiamo ritrovato in apertura, Luca da Milano mi chiede quali album posso consigliarvi. Guarda, francamente Luca, ce ne sono troppi. Tieni presente che loro sono nati a metà degli anni 70, sono tra i primi a portare in avanti il cosiddetto heavy metal, però ne avrei troppi, che ne so, da Sad Wings of Destiny, Sin After Sin, Stained Glass, Hell Bent for Leather, che sono i primi, tra i primi lavori. Poi non posso dimenticare British Steel fino agli anni 80 con Defenders of the Faith, Painkiller. Guarda, ce ne sono veramente tanti. Vi consiglio di comprare piano piano la loro discografia e non rimarrai assolutamente deluso. Vado a salutare un amico anche tramite un SMS, lui si chiama Max, dice: ciao Marco, non ti ho scritto molte volte, ma desideravo ringraziarti dal più profondo del cuore per l'ottima compagnia, le emozioni musicali che mi hai trasmesso. Sono stato anche lieto di averti conosciuto, hai tutta la mia stima per l'impegno e la passione che hai messo nel tuo lavoro. Grazie, grazie, grazie. Non è un addio, è solo un messaggio assolutamente non triste. Grazie a te di cuore, un abbraccione Max, buon lavoro, buon proseguimento di tua giornata. Noi continuiamo a livello musicale, ci stiamo avvicinando alle ore 10, ci arriveremo con i Depeche Mode e la loro Blasphemous Rumors. I'm Era il 15 maggio del 1976 quando i Rolling Stones raggiunsero la posizione numero uno nelle classifiche di vendita americane con un album forse tra i più funky della loro produzione, cioè Black and Blue. C'era Hot Stuff e Negrita come brani abbastanza più funk che non rock, ma c'era anche una bellissima ballad, questa Fool to Cry, che andiamo a proporre. Era il sesto album della band degli Stones che arrivava al numero uno nelle classifiche di vendita americane. Working all night long. Put my daughter on my knee. And she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, yeah.